Allora, benvenuti e benvenute a tutti e tutte al Festival di Letteratura Sociale in Polveriera. Questa è la seconda presentazione della giornata e siamo qui a presentare questo il progetto editoriale del Laboratorio per un'altra città. Il Laboratorio per un'altra città è un gruppo molto attivo sul territorio da 10 anni, quindi insomma, e niente, hanno dato vita a questo nuovo progetto editoriale che si chiama La città invisibile, grazie, che trovate anche online. Abbiamo qui con noi Ilaria, Ornella e Francesca che ci presenteranno La città invisibile. E oltretutto il Laboratorio per un'altra città ha inaugurato giusto la settimana scorsa uno spazio sociale di mutuo soccorso proprio qua vicino in via Alfani, insieme ai Clash City Workers, che sono un collettivo che si occupa di sindacalismo di base. Quindi magari dopo, se ci parlate anche un po' di quello, ci interessa molto. E niente, lascio direttamente la parola a voi. Benvenuta intanto. Sì, grazie. Allora, comincio io. Sono Ornella e vi dico un po' come è nato questo progetto editoriale. È nato quando il nostro gruppo, il nostro laboratorio, per l'appunto per un'altra città, ha concluso la sua esperienza di opposizione in un'istituzione locale che è quella del Consiglio Comunale. Abbiamo fatto questo esperimento che tutto sommato era anche un po' una sfida, cioè era quella di avere degli attivisti puri che vanno dentro a un luogo che tradizionalmente è quello della politica, diciamo, di professione, portano i loro argomenti, il loro metodo di lavoro, rompono, no, un po' con la retorica, diciamo così, istituzionale e accendono in città un dibattito sui temi che sono poi quelli del governo del territorio. Quindi noi abbiamo fatto questa esperienza che è durata per 2 legislature, sempre appunto a un'opposizione molto anomala, e sempre lavorando sia dentro che fuori, ovviamente. Cioè noi lavoravamo fuori sul territorio, abbastanza forte il nostro gruppo di urbanisti, ma non solo, insomma, attivisti di varia su varie vertenze, dalle grandi opere al notunnel, all'acqua, insomma, tante cose, e siamo però precipitati anche dentro sto consiglio comunale scompigliando un po' le carte. Ci siamo anche divertiti, non ci è venuto mai mal di stomaco, che è già qualcosa di positivo. E abbiamo però poi chiuso questa esperienza, abbiamo valutato che non ci interessava più per una serie di motivazioni, e allora ci siamo anche chiesti che cos'è che poteva essere utile fare per un soggetto come il nostro, che aveva comunque una certa conoscenza puntuale dei problemi e delle istanze proprio anche che chiedevano, no, risposte diverse su questo territorio. E anziché formare l'ennesimo gruppo, no, che insomma tematicamente si occupava di qualche cosa, abbiamo deciso di offrire in realtà una piattaforma online di servizio di controinformazione per quello che già c'era. E quindi abbiamo messo in piedi un po' questo progetto editoriale con alcuni di noi che avevano anche esperienza di giornalismo, altri invece no. Quindi siamo partiti un po' così sull'onda anche della sperimentazione. Cioè abbiamo detto, verifichiamo, no, questa cosa, serve o non serve avere un periodico online che non produce dei testi che vengono da una redazione. Noi siamo una redazione, poi ve ne parlerà Francesca, di 10 persone, ma non scriviamo tendenzialmente, quindi non è una rivista scritta da una redazione, ma è una rivista, diciamo, che è un po' un esperimento di activism journalism. Lo dico in inglese perché in italiano in effetti non è, questa pratica non è diffusa, cioè è una rivista scritta dagli attivisti delle varie vertenze a cui noi chiediamo i pezzi. Quindi sulla città invisibile voi trovate che soggetti molto diversi che si alternano, qui ci sono copertine di alcuni numeri e così potete vedere anche le alternanze, a seconda di quello che è un tema caldo in quel periodo, in quella fase, chiediamo a quelli che stanno direttamente nelle lotte, nelle vertenze, di raccontarcela e di scrivere. E noi come redazione sostanzialmente chiediamo, abbiamo chiesto quando è nato Mondeggi, ora qui c'ho davanti, e quindi quando è nato Mondeggi subito abbiamo chiesto che fossero loro a scrivere che cos'era l'esperienza, perché nasceva, quali erano le tematiche, i problemi, il metodo di lavoro, e abbiamo pubblicato subito il primo articolo, per dire, su Mondeggi. Ma così potrei dire sulle lotte che adesso nella Piana poi si sono sviluppate contro l'aeroporto, contro l'inceneritore, il discorso del problema della casa, quindi il movimento di lotta per la casa che contribuisce periodicamente anche con aggiornamenti, ma anche per dire quando si è formato il primo gruppetto di ACAD a Firenze, noi abbiamo chiesto alle ragazze che lavoravano dentro ACAD di scrivere, no? E di raccontare che cos'era e perché era importante lottare contro gli abusi in divisa, per esempio, e così via. Quindi quello che era il nostro intento era quello di non avere né dei filoni tematici, no? Infatti ci siamo posti anche la domanda, ma dobbiamo fare dei numeri tematici a volte? Abbiamo deciso che invece no, quello che secondo noi era interessante era mescolare, alternare i vari temi e le varie, appunto, vertenze a seconda di quello che succedeva su questo territorio in particolare, ma insomma abbiamo anche allargato l'orizzonte, per cui, per dire, c'è una rubrica che si chiama Le Nuove Destre, dove vengono affrontati temi che riguardano certamente l'Europa, la Francia, insomma, capito? Quindi, ecco, come vi ho detto, abbiamo provato e abbiamo detto, e poi lo verifichiamo, perché se poi nessuno ci legge, chiaramente noi facciamo un bilancio e diciamo, beh, facciamo altro. E così insomma, abbiamo proceduto in questo modo e abbiamo invece verificato che, un po' inaspettatamente, perché insomma non sapevamo bene com'è, un po' inaspettatamente avevamo e abbiamo molti accessi. Ora poi sui numeri io lascio poi la parola a Francesca, che è più precisa, abbiamo tutti dei conteggi che sono quelli del server del sito, eccetera eccetera, però era per dire che abbiamo verificato che piano piano non eravamo più noi a chiedere alle realtà di scrivere, no? Come alla polveriera abbiamo chiesto, no? Ma in tempi non sospetti, diciamo, proprio di dirci che cos'era questa esperienza, perché nasceva, eccetera. Bene, piano piano cos'è successo? Che adesso sono le varie realtà che ci mandano dei pezzi quando hanno qualcosa che vogliono diffondere, perché il concetto per noi è quello di diffondere quello che succede nelle lotte che noi sappiamo che sono attive, che sono spesso frammentate, lo sappiamo, ora non apro questo capitolo, però insomma ci sono molti soggetti attivi in realtà, anche qui, anche nel territorio fiorentino e metropolitano, dalla Piana fino appunto a Mondeggi. Poi però, ecco, il rischio è che ciascuno diffonda i propri contenuti all'interno di circuiti che sono quelli più affini, no? A loro. Ecco, in questo modo chi si legge, non lo so, ora prendo un a caso, un articolo sul numero X il tunnel TAV con dei dati precisi, perché sono articoli questi, lo dico subito, che sono informazione. Noi abbiamo recuperato il termine controinformazione, francamente, ma insomma è informazione. Ecco, uno si trova a leggere prima e poi trova subito dopo invece un pezzo, appunto, per l'appunto qui c'è Mondeggi Bene Comune, poi c'era un altro pezzo sullo Stop TTIP quando era in auge la campagna Stop TTIP, e poi c'è magari appunto il movimento Lotta per la Casa. Allora, l'idea è anche quella di non costruirla troppo questa rivista, no? Ma di lasciare che quello che c'è arrivi, naturalmente con una redazione che legge, a volte anche in un paio di casi, diciamo così, ha chiesto di, insomma, se Voglio dire, non è che prendiamo qualunque cosa, chi si rivolge a noi sa benissimo, no? Che deve essere una voce comunque di lotta e quindi controcorrente rispetto a certe cose e deve essere oltre un pensiero unico, eccetera. Quindi non è che ci arrivino cose qualunque, però insomma la redazione legge, fa poi un lavoro materiale di editing, trova le immagini, eccetera, eccetera, e poi sostanzialmente si compone un po' a seconda di quello che c'è. Quindi incredibilmente c'è molta poca programmazione a monte, c'è un'attenta revisione invece di quello che arriva e c'è anche a volte uno spostare un articolo se c'è un eccesso di un tema in uno, per esempio. Se abbiamo tre pezzi, no, sull'urbanistica, uno si fa slittare perché non deve diventare poi una roba... perché noi tendiamo, abbiamo un po' sto vizio, che poi insomma gli urbanisti sono un attimo invadenti e ce abbiamo tanti nel nostro gruppo, allora a volte li mettiamo da parte. Beh, esatto, però insomma, ecco, quindi è una rivista che, io dicevo, è una piattaforma di servizio, perché in fondo questo è, cioè diffondere quello che già sta accadendo e che già c'è, e che molto spesso rimane un po' all'interno di circuiti ristretti. Dico questo perché la rivista in realtà circola in un indirizzario molto ampio, che non è solo quello degli attivisti, che sanno già tutto praticamente, no? Gli attivisti fiorentini quanti saremo? 200-300 massimo, ci si potrebbe contare, in tutto, quindi no. È un indirizzario molto, se avete numeri maggiori, ma io per gli attivisti vuol dire poi chi, dico, fa dell'attivismo il suo stile di vita, non può farne a meno, che c'è sempre, che comunque sta dentro una lotta e la, insomma, agisce, no, in conflitti di vario genere, dalle occupazioni ai collettivi studenteschi, agli studenti medi, alle cose più, insomma, quelle che vogliamo. Beh, allora, invece questa rivista va in mano anche a gente che... magari non si scomoda tanto, no? Appunto non è attiva proprio nelle occupazioni, però evidentemente ha un interesse verso questa visione e questo pensiero critico che qui serpeggia, capito? E quindi la cosa interessante è che abbiamo un pubblico di lettori differenziato, il che a noi ci piace molto, perché ci piace molto mescolare le carte, no? Come mescolare gli argomenti, come... Tanto noi abbiamo ben chiaro, insomma, un po' la direzione in cui noi vogliamo che il nostro lavoro vada, però lanciamo poi queste cose un po' in maniera ampia e quindi appunto i pezzi vengono poi raccolti in questa newsletter che ogni 15 giorni esce il mercoledì e di solito ci sono una quindicina di articoli. Questo è un nostro difetto, perché ci dicono che sono troppi e forse è vero. Alla fine però risultano sempre 13, 14, perché poi la roba arriva, ci sembra interessante, noi la mettiamo. E ci hanno detto quelli che invece sono i sapientoni del giornalismo che non si deve mandare tutta sta roba insieme, perché la gente poi te ne legge uno, due, ma non... E noi non ci è riuscita ancora di ridurre i pezzi e quindi avete sta roba che... Però poi in realtà sono pezzi che non scadono, perché non sono legati a un'attualità della notizia. Parlavate anche prima, no? Dell'attualità, insomma, che ha preceduto. Ecco, noi stiamo un po' sulle cose che succedono, però sono pezzi che hanno sempre un taglio politico, per cui noi vediamo che c'è una lettura di pezzi vecchi che a volte ritorna e vediamo che c'è un numero di lettori che magari in quel momento ritorna a ripescare un articolo che era di 6 mesi prima, perché si ritorna a parlare di quell'argomento e evidentemente il pezzo è ancora attuale. Allora, io mi fermo qua, perché poi voglio dare la parola, credo prima a Ilaria, vero? E poi a Francesca, ecco. Bene, sono Ilaria. Io sono una di quegli urbanisti invadenti, quelli è. Però, vabbè, l'urbanistica in questa rivista ha un ruolo, insomma, diciamo... Sì, insomma, si vede che ci sono persone che si occupano di città e che si occupano del diritto alla città. Quindi cerchiamo di volta in volta di approfondire dei temi che riguardano appunto l'urbanistica nella città neoliberista, nella città in cui comandano i poteri forti, comanda la finanza, comanda il turismo globale internazionale. Quindi ci si trova di fronte a una città che soffre, nella quale i residenti stanziali o di passaggio hanno delle difficoltà di inscrivibili in quel diritto alla città di cui tanto si parla. Ci sono vari capitoli che si ripresentano, ritornano, sui quali ci arrovelliamo e sui quali cerchiamo interventi e articoli dagli attivi, da chi ne soffre. Faccio l'esempio, quello che ci sta occupando di più, perché è pervasivo nelle città a Firenze, ma nella città neoliberista in generale, quello della vendita, della svendita dei beni patrimoniali pubblici, degli edifici pubblici, il cosiddetto capitolo delle alienazioni, quest'urbanistica che si trasforma in mera questione di ragioneria, cioè non si governa più la città, ora governano nella città, la parola più bella, però che non si amministra più la città ricercando il bene collettivo, il benessere collettivo, di far sì che ci sia almeno un equilibrio tra gli interessi pubblici, l'interesse pubblico e gli interessi. Il sindaco che abbiamo chiamato il sindaco Notar, perché quando il TAR, grazie a Dio, bloccò in una fase l'aeroporto di Firenze, ecco, il sindaco di Firenze che fa? No, cioè un sindaco, quindi un rappresentante della Repubblica, diciamo così, esternalizza la propria contrarietà ai ricorsi al TAR, cioè i cittadini non possono far ricorso al Tribunale amministrativo perché questa pratica consueta e prevista dalla giurisdizione blocca appunto gli interessi degli amici che vogliono costruire un aeroporto a pochissimi chilometri dalla cupola del Duomo. Gli argomenti sono tanti, ormai sono all'aeroporto, quindi un altro degli argomenti che trattiamo è quello delle grandi opere. Qui allora entrano in ballo i no tunnel TAV, che ci tengono sempre, tengono tutti sempre informati sull'avanzamento purtroppo di questo progetto scellerato, che è l'attraversamento della città con un tunnel di 7 chilometri che appunto è un buco finanziario, oltre ad essere un'opera della quale nessuno sentiva il bisogno. Abbiamo ospitato articoli anche di Tiziano Cardosi, sì, ora parlavo dei notav, certo, poi c'è l'Assemblea della Piana che tratta le questioni dell'aeroporto, l'aeroporto che abbiamo detto, l'aeroporto di Carrai, no? che appunto, ecco, sull'aeroporto abbiamo fatto anche un dossier, Il cielo sopra Firenze, trafficato e fuori legge. Qui ci sono interventi ad esempio di Claudio Greppi della Rete dei Comitati, il Collettivo di Scienze degli Studenti Sinistra e vari Piana Sana, nostri ovviamente, dei nostri urbanisti. L'aeroporto e l'area di Castello, problematica, perché è vero che Firenze, come si è detto, è centro storico, ma Firenze ha anche le sue periferie molto problematiche. Castello è il nodo dei problemi, su Castello verteranno l'aeroporto, lo stadio, la cittadella viola, la Mercafir, cioè il mercato ortofrutticolo che verrà spostato anche questo a spese del contribuente per far posto allo stadio, tutto un rimpallo di grandi, chiamiamole grandi opere, o comunque di opere molto consistenti, che devono trovare spazio in un luogo non così vasto, sui quali tra l'altro mi ricordo un articolo di Ornella che diceva appunto che si sta inverando anche un'operazione di land grabbing alla Fiorentina, nel quale chi ha chi ha più disponibilità finanziarie compra i terreni e rende possibili queste opere. Poi c'è il diritto alla casa, diritto alla casa, abbiamo Maurizio che è uno dei nostri redattori, ne scrive, ma ne scrive anche il movimento di lotta per la casa, ne ha scritto anche, ecco, anche sulle alienazioni, l'ex Emerson, Via del Leone, sulla questione del movimento di sulla questione della casa e della riappropriazione degli spazi residenziali. Abbiamo denunciato l'alienazione degli appartamenti utilizzati come residenze sociali, appartamenti comunali di Via dei Pepi, ma anche quelli di Via del Leone, dove è in atto una bella realtà, appunto, di riappropriazione sociale degli spazi urbani. Questione migranti, qualche mese fa c'è stata una vittima in un capannone nella periferia ovest di Firenze, nel capannone ex Aiazzone. Ecco, dell'amministrazione si è creduto opportuno chiedere sacchi a pelo per i migranti invece di fornir loro, come amministrazione, come buona amministrazione, delle case che avessero una dignità. E questo a fronte di un patrimonio immobiliare anche monumentale, enorme all'interno della città storica, che però è lì a aspettare la migliore offerta dal punto di vista mercantile, non dal punto di vista sociale. Poi urbanistica e mafia. Urbanistica e mafia, soprattutto con gli articoli di Ziparo, urbanistica e legalità, che tra l'altro prendono l'avvio da lezioni che Ziparo ha tenuto, del professor Ziparo, che ha tenuto proprio qui alla Polveriera. Il ritorno alla terra con Mondeggi, che è quello che io, vabbè, insomma, che vabbè, niente. E, ecco, quando si parla però della città invisibile, questa città invisibile non è solo Firenze, eh. Abbiamo ad esempio la questione Pistoia, l'altra faccia della Piana, una rubrica curata da Antonio Fiorentino. A Pistoia ora ci saranno le elezioni, una lista di cittadinanza si è messa in movimento, che sta raccogliendo le istanze e le vertenze locali. Anche lì l'urbanistica è anche quello un altro capitolo, insomma, sul quale è anche Pisa col municipio Bari Comuni, che ha collaborato, ribeldia, eccetera. Avrò dimenticato sicuramente qualcosa, passo la parola a Francesca. Sì, io anche abbastanza velocemente, nel senso che appunto vi abbiamo raccontato come su questa rivista c'è, cioè, un grande numero di autori. Per la precisione, oggi siamo andati a rivedere un po' di numeri, ad oggi siamo a 235 autori. Abbiamo cominciato, il numero zero è stato il luglio del 2015, quindi un anno e mezzo, insomma, quasi qualcosa di più di un anno e mezzo. Quindi 235 autori a fronte di una redazione che invece è molto snella, nel senso siamo 10 persone, ma il lavoro, appunto, come diceva prima Ornella, che fa la redazione è proprio quello di fare scouting di informazioni e di autori stessi, cioè in questo momento c'è una notizia che ci interessa, c'è un tema che ci interessa, andiamo a cercare chi è che se ne occupa. Come lavora la redazione? La redazione è un gruppo politico che si è rodato già con il lavoro in consiglio comunale e oltre, quindi c'è anche questa, in qualche modo, un lavoro che è andato avanti negli anni, per cui è una redazione che lavora sia con le classiche riunioni di redazione, come diciamo, come nelle redazioni, nelle vecchie redazioni cartacee, ma è una redazione che lavora anche molto con gli strumenti offerti ovviamente dalla rete, quindi dalla mailing list al gruppo WhatsApp, perché nonostante non ci interessi in qualche modo stare sulla notizia, però stiamo in qualche modo sulla notizia ma facendo degli approfondimenti, quindi non usciamo 5 minuti dopo che è uscita l'ANSA, però magari 2 giorni dopo ci interessa uscire. E quindi diciamo che anche la chattina su WhatsApp è uno strumento che noi abbiamo scoperto essere utilissimo per un lavoro redazionale, perché tenete conto che appunto noi non facciamo la rivista, è una rivista online, abbiamo, gli articoli sono scaricabili. All'inizio facevamo sempre questo lavoro molto faticoso di mettere tutti gli articoli insieme in un PDF, ma ci siamo poi accorti che alla fine comunque oramai la fruizione è molto diversa, e quindi per cui la redazione è una redazione online, non, anche chiaramente questo per motivi di investimento, sia perché veramente il cartaceo non viene più letto quasi da nessuno, ma anche perché insomma si lavora online. Quindi questo è il lavoro della redazione. Cosa facciamo? È vero che abbiamo una newsletter, ma pubblichiamo articoli sul sito quasi quotidianamente. Quasi quotidianamente su temi appunto che sono, come vi dicevo, non proprio di attualità, però approfondimenti su quello che sta succedendo. Ogni 15 giorni raccogliamo tutto quello che abbiamo prodotto in questi 15 giorni. In più ci inseriamo anche delle rubriche. Non so se qualcuno di voi è iscritto e riceve la nostra newsletter, c'è una prima parte che appunto si chiama Primo Piano, dove appunto noi raccogliamo tutti questi pezzi che sono usciti nelle due settimane precedenti e anche alcuni inediti, un paio di inediti. Quello che invece produciamo quasi appositamente per la newsletter sono le rubriche. Le rubriche che sono alcune proprio specificatamente e smaccatamente politiche. Abbiamo una rubrica che si intitola Urbanistica Resistente. Se voi uscite e andate e vedete il nostro banchino, abbiamo pubblicato un libro che si intitola Urbanistica Resistente, ecco. E, a cura appunto di Ilaria. E stiamo pubblicando però questo libro in pillole, quindi anche chi riceve la newsletter, anche chi va sul sito può trovare gli estratti dal libro. Abbiamo una rubrica sul carcere, un'altra rubrica che si chiama ACAD sugli abusi in divisa, una rubrica sulle nuove destre che esce, l'avevi già citata, che esce quindi dall'ambito fiorentino e si va anche in ambito europeo, si parla della Le Pen, si parla... abbiamo poi c'è una rubrica appunto su Pistoia, perché la Piana, quindi Firenze, la Piana di Firenze poi va a finire a Pistoia, quindi in qualche modo tutta questa Piana che passa appunto da Firenze, Sesto, Campi Bisenzio e così via, arriva fino a Pistoia. Abbiamo una rubrica anche su Pistoia. Abbiamo poi dopo tutta una serie di rubriche che sono proprio quelle classiche che ci si aspetta, dalla musica alla cucina alle recensioni di libri, di film, di documentari di Gilberto, una rubrica sulla medicina alternativa. Tutto questo però devo confessare che le rubriche sono la mia parte preferita della, perché l'altro insomma sono quelle cose che ti aspetti. Le rubriche a me mi piacciono molto, perché per esempio la rubrica di musica è curata da una cantante che si chiama Francesca Breschi, che fa parte del quartetto vocale di Giovanna Marini, quindi musica popolare, e che fa un grande lavoro di recupero della tradizione musicale. E quindi cosa fa Francesca? Va a ritrovare nella musica tradizionale qualcosa che si lega con l'attualità. Quindi c'è la guerra, lei cosa va a ritirare fuori? Quelle ci sono sempre, quindi insomma diciamo che... Gorizia tu sei maledetta, e ci racconta tutta la storia, ci racconta tutta la vicenda di quello che è successo, ti pubblica il video, il link a quello. Si parla del Notav, lei ci ritira fuori la canzone sul treno di Bastia riscoperta da Caterina Boena, quindi una lettura della musica in chiave politica. Lo stesso, sì certo, lo stesso per la cucina, quindi una cucina che è tenuta appunto da Barbara Zattoni, che è una chef, e che è tutto il contrario della cucina che si vede in televisione, no? Tutto il contrario di MasterChef, la cucina del riuso, la cucina povera, perché anche la cucina è politica. E un'altra rubrica sui mezzi pubblici che si chiama Mezzi e Mezzucci, in cui in maniera ironica si va a vedere quello che succede a ATAF e altre tragedie fondamentalmente. E appunto un'altra rubrica invece sulla medicina alternativa, che si intitola Big Pharma no grazie, perché appunto quando si hanno dei piccoli malanni forse non è necessario ricorrere a medicinali troppo pesanti e così via. E tutto questo insieme in qualche maniera va appunto a, a formare la nostra rivista, che piano piano con questo lavoro quotidiano di diffusione, abbiamo ovviamente anche una pagina Facebook su quale pubblichiamo quotidianamente vari articoli, e facciamo proprio quel lavoro di ripescare anche gli articoli vecchi quando tornano di attualità, perché questo lavoro lo facciamo proprio sulla pagina. E con questo lavoro quotidiano, puntuale, lavoro ovviamente come tutti quelli qua dentro, completamente volontario e di attivisti volontari, abbiamo raggiunto all'incirca i 2000 visitatori al giorno, quindi che per noi è un ottimo risultato. Con visitatori vuol dire accessi singoli, quindi persone che passano anche qualche minuto sul nostro sito, quindi non semplicemente click che vanno lì, aprono e poi chiudono, ma persone che vanno sul sito per leggere gli articoli, che sembra un'affermazione banale, ma per chiunque si occupi appunto di rete e di web sa benissimo che invece è quasi anomalo, perché di solito appunto le permanenze sui siti web sono veramente rapidissime, tanto che ci sono alcuni giornali che ti danno il minutaggio per leggerlo, no? E quindi in maniera che te, se non hai tempo, non lo leggi nemmeno. A me sembra che a questo punto un po' vi abbiamo fatto un po' un quadro generale, se poi insomma ci volete chiedere qualcosa, ci sono delle curiosità che avete. Se ci sono domande, sì, se no volete dire qualcosa anche dello spazio inchiostro? Ah, ok, rimango una domanda. Beh, una, già che avete parlato di appunto ora della modalità di redazione e della modalità di lettura, cioè in questo periodo mi pare si stia parlando abbastanza, anche se questa è una domanda generica, però appunto del fatto che dell'effetto appunto del web sulla trasmissione delle notizie, e voi appunto pensate che una modalità e che la modalità web appunto ha delle problematiche nel riuscire ad andare a fondo, no? Nel riuscire a ottenere che l'utente approfondisca le tematiche rispetto a quello che è sulla carta, e voi dopo un po' di appunto di esperienza che siete riusciti a fare, pensate che appunto si riesca comunque appunto attraverso metodologie diverse, o che appunto magari cioè avere un'altra modalità di presentazione possa migliorare questo? Ma allora, intanto nessuna modalità secondo noi è positiva, no? Nel senso che l'ideale è quello di stare su più piani. L'ideale sarebbe avere anche un cartaceo, nel senso che Francesca diceva per un periodo abbiamo fatto anche il PDF eccetera eccetera, abbiamo visto che veniva pochissimo usato in realtà dai nostri lettori, quindi abbiamo deciso che non ce la fa, cioè era un investimento di energia forte per noi, e quindi insomma, era un lavoro quasi in parallelo rispetto alla realizzazione della rivista, quindi non l'abbiamo più fatto, ma l'ideale sarebbe in realtà di avercelo, secondo me, in modo che tu lo puoi distribuire, che la gente se lo può tenere in mano, se lo legge, eccetera, come modalità di diffusione, dico. A quanto poi all'approfondimento, su certi temi noi abbiamo sentito il bisogno in realtà di fare il punto e di andare un po' più a fondo, per l'appunto, o con questi dossier. Ilaria citava quello sull'aeroporto, ne abbiamo fatto un altro sull'acqua sotto Firenze, sulla fragilità idrogeologica, perché secondo noi erano temi che in quel momento insomma avevano bisogno di un approfondimento, che voleva dire una serie di voci diverse che trattavano il tema da punti di vista diverso, per cui c'era l'ingegnere che contava, no, poi c'era l'attivista, poi c'era chi lavorava a Publiacqua, eccetera eccetera, e ti davano quindi il qua. Quindi sicuramente questo è una modalità che permette un approfondimento. Poi abbiamo anche però noi messo in piedi una serie di incontri su alcuni temi, per esempio sulla cultura, sull'alienazione dei beni culturali, abbiamo fatto una serie di incontri con persone che ci lavorano dentro, che sono attive dentro, E allora sono state delle serate in cui, a partire da un articolo, poi in realtà veniva fuori uno scambio e un approfondimento. Quindi sicuramente i limiti ci sono di una informazione in rete, però devo anche dire che dipende molto, secondo me, dal taglio anche che si danno agli articoli. Per esempio, noi privilegiamo, diciamo così, non diciamo fare il commento politico che già gira abbastanza, insomma, no? In un mondo ci sono varie piattaforme su cui tu puoi leggere anche cose che secondo noi sono anche condivisibili, insomma, su temi, su tematiche sociali, politiche, quello che vuoi. Cioè, noi abbiamo privilegiato l'aspetto dell'informazione, che ti consente in realtà, in uno spazio con dei dati in cui tu citi la fonte, ovviamente, no? Non è che ti consente, in uno spazio anche breve come quello di articoli che la gente legge rapidamente, come questi qui classicamente sulla rete, però ti dà intanto dei dati, poi naturalmente ti dà il taglio e la lettura, il pensiero critico su quello, ma soprattutto poi ci sono i link. Cioè, nei nostri articoli spesso ci sono dentro dei link per cui chi è interessato va a leggersi l'articolo, il saggio, il libro. Cioè, noi siamo consapevoli dei limiti, della misura proprio dell'articolo, no? Anche online. Però è anche vero che abbiamo proprio verificato che gli articoli più lunghi sono quelli che vengono letti meno, indipendentemente dall'argomento. Quindi questo qualcosa ci dice che nella stragrande maggioranza la gente vuole avere qualcosa di immediatamente fruibile, e però lì ci devi mettere dentro qualcosa che vada al di là, insomma, no, che poi chi vuole va anche a trovarsi in realtà. Quindi, insomma, siamo ben consapevoli della problematica che giustamente hai sollevato, e non pensiamo assolutamente, ma intanto, di essere esaustivi, non l'abbiamo mai pensato nella nostra vita in generale, quindi tantomeno, voglio dire, no, sulla rivista, ma il fatto che si va avanti anche sperimentando. Se noi vediamo un calo, per esempio, degli accessi, ci interroghiamo e capiamo e vediamo il perché, il per come. Insomma, bisogna anche procedere in questo modo, non abbiamo nessuna certezza o sicurezza a priori. Verifichiamo che sembra utile perché viene utilizzato questo strumento. Poi, quién sabe, cioè, capito? Però è chiaro che ci sono molti altri metodi in cui tu puoi approfondire di più, insomma, i temi. Quello di sicuro. Poi, però, se fai solo quelli, ti vengono 20 persone che sono quelle super interessate, e allora però diventa una cosa che a noi non ci piace fare, insomma, ecco, tendenzialmente, no? E la seconda domanda, appunto, era su, dato tutto il percorso che ci avete un po' raccontato, se appunto da questo lavoro di collaborazione con varie realtà si siano formati, come, non so, appunto avete nominato gli urbanisti, sia servito poi a creare dei gruppi, cioè se dalla discorso informativo si sia poi rigenerato, a, diciamo, all'indietro fortificato una collaborazione, e poi appunto soprattutto se sia su questo e sia su altro, se ci raccontate un po' qual è un po' l'idea di dare un luogo fisico all'esperienza che state portando avanti. Sì, allora, diciamo che non si sono formati gruppi dal lavoro, perché il lavoro in realtà è fatto da una redazione in cui sono presenti persone che già appartengono ai vari gruppi. Cioè, la particolarità nostra, ora non è che ci rientrava di dire tutto, anche perché insomma erano io, però in realtà la redazione è una redazione fatta di attivisti su vari fronti, quindi non è che si sono formati gruppi dopo, in realtà è che noi siamo direttamente un po' presenti in tante realtà che stanno appunto facendo azione e critica, e insomma, quindi non è tanto quello. In realtà per noi il punto era quello di diffondere quello che viene fatto, non di creare noi un gruppo, cioè, ma al contrario, cioè proprio di avere una presenza minimale in realtà noi, come per un'altra città. Infatti, insomma, la città invisibile è una cosa che, non, insomma, sì, poi è certamente, c'è il laboratorio per un'altra città che la fa, però voglio dire, non è quello il punto è proprio quello di dare visibilità e diffusione ai contenuti, alle azioni di lotta che esistono. Quindi a noi interessa questo, perché crediamo che oggi sia questo il bisogno, quello della informazione e anche quello di far vedere quanto di opposizione, diciamo, appunto al pensiero unico c'è, perché c'è tanta roba e spesso ognuno vede un po' solo quello che sta intorno a sé, diciamo. Quindi allora, questo è l'obiettivo. Quindi sparire come soggetto del laboratorio e dare tutto lo spazio a tutto quello che c'è. E la scelta di non formare un gruppo attivo sul territorio nasce da questo, no? Perché noi potevamo benissimo continuare un'azione di gruppo, magari più legata all'urbanistica, ok, ma non ci interessava, perché l'ennesimo gruppo poi non è lì il punto. Ecco, quindi questo per quanto riguarda la prima parte, no? Mi pare che tu affrontavi. La seconda parte era il discorso dello spazio, del luogo fisico, e qui devo dire che noi siamo stati molto sollecitati dai Clash di Firenze, perché noi pigramente dicevamo, ma no, poi dopo va, cioè, insomma, già ci sembra di aver tanto da fare così, no? Non è che poi, cioè, lo spazio fisico poi lo devi tenere aperto, non è che c'è lo spazio fisico, lo sapete bene voi, no? Cosa significa, Però invece loro ci hanno un po' tampinato da questo punto di vista l'importanza, ci hanno fatto venire effettivamente voglia, sì, forse avete ragione, perché noi siamo quelli che non è che abbiamo le idee fisse e rigide. Insomma, se uno ci dimostra che qualche cosa, no, funziona, ma è bene, una cosa nuova. E allora è nata da questa loro voglia di avere uno spazio fisico che fosse di un certo tipo, e che possibilmente fosse nel centro di questa città, è l'impegno che abbiamo messo insieme a cercarlo. E poi siamo entrati in contatto con questa associazione, che è l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, che proprio non è che Radio Wombat di viaggio di strada nostro. Sono delle persone di una certa età, voglio dire, che già, i quali sono stati, hanno dei locali tanti nel centro di Firenze, dalla rotonda Brunelleschi a tutto quello che sta intorno. E da Roma gli hanno messo in vendita tutto. Quindi da un giorno all'altro questi qui, che facevano non so bene cosa, perché prima francamente non è che li frequentassimo, quindi non so cosa facevano, ma qualcosa avranno fatto, immagino, delle loro iniziative o le scuole, eccetera, si sono trovati spiazzati, perché praticamente li hanno, apro virgolette, messi in vendita e sono stati presi un attimo così dal pane. Per cui avevano tutto questo spazio. Siamo entrati in contatto con loro, perché Lorenzo De Clash, insomma, conosceva a Pisa, dove lui studia, l'ANMIG di Pisa. E così parlando, dicendo, sarebbe bello però avere uno spazio in cui poter fare qualcosa. In fondo in centro cosa c'è? La polveriera e Via del Leone, no? Ma guardate, insomma, poi il resto, insomma, è tutto molto... Vabbè, e poi anche una cosa diversa, perché c'aveva un taglio diverso, non è che va a fare le stesse cose. E questa qui dell'ANMIG di Pisa ha detto, ma scusa, ma perché non sentite l'ANMIG di Firenze? Sono tutti vuoti, perché non c'hanno più nulla dentro, perché tanto sono in vendita. Naturalmente è tutto coperto dalle belle arti, la soprintendenza, quindi non credo che ci si possa proprio fare l'ennesimo... Però... effettivamente sono in vendita. Quindi loro, allora siamo andati dall'ANMIG e insomma abbiamo, ci siamo messi la cravatta, insomma abbiamo fatto così, ha detto, allora, noi facciamo attività di un certo tipo, senza specificare più di tanto, che poi veniva al Bargellini con i 50 soldi, ma comunque abbiamo ha detto, noi facciamo attività di questo tipo e se voi, noi potremmo recuperare una parte di questo spazio, che era una specie di magazzino e che era invece un'ex cappella. Qui Roberto Budini sa benissimo questo spazio cos'era prima. Sì, certo. E quindi abbiamo liberato tutto, abbiamo passato 20 giorni a pulire, a levare materiali, cose. e gli abbiamo detto che l'avremmo utilizzato per una teta. E loro sostanzialmente, per, anche perché era pesante per loro avere tutto chiuso e nessuna vita lì dentro, per dimostrare a Roma che in realtà questi spazi sono utilizzati da qualcuno, insomma ce l'hanno dato in una modalità stranissima, che non è affatto un affitto, perché non è nulla, è solo che noi gli si paga la bolletta dell'acqua, detto proprio così, e della, no, perché questi proprio non c'hanno, ha detto va bene, noi ci impegniamo a tenere bene, a fare, perché insomma sono poi è affrescato il chiostro eccetera, e lì allora adesso partiamo con una serie di iniziative in cui quella non è una sede, è uno spazio di agibilità sociale in cui le realtà che noi, insomma, con cui siamo in rete o che conosciamo, che comunque lavorano in questa direzione di cui stiamo parlando qui oggi, vengono, propongono iniziative e c'è una possibilità. L'unico vincolo è che deve essere assolutamente gratuito sempre l'ingresso e nessuno deve fare attività commerciali di nessun tipo lì dentro. Dopodiché cominceremo ad avere l'apertura fissa il giovedì pomeriggio, ora oggi no perché insomma era un po', e comunque partiamo ora, e il giovedì pomeriggio con anche una insomma, una consulenza medica che abbiamo pensato per il quartiere, c'è un nostro attivista che è medico che ha detto che secondo lui era importante, quindi non il medico con la valigetta e lo stetoscopio, ma il medico che comunque... Radio Wombat, Radio Wombat.